This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Ser sério assim no inferno, ah, ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um contra. Grave esse negócio pra não esquecer, isso não vou esquecer. Ah, ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta metáfora coringa chamada Vale daqui não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda, roda, roda. E lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que ou passa a aprender com os alunos, quer dizer com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Ah, ah, e lá vem ele sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, se eu pudesse, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Então esta metáfora coringa chamada Vale daqui não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda. Ah, lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério, de ser tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Deixa eu entrar, aprender a entrar em sério. Roda, roda, lá vem. Roda, roda. roda, roda, roda de falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno, de chorar tão sério, de brincar tão sério e de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que ou passa a aprender com os alunos, quer dizer, com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Mida, mida, mida. Fala tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Fica legal esse negócio aí? Podia tentar fazer uma, né? Buonasera a tutti, siamo in diretta, questa è This is not an exit e state ascoltando Radio Città del Capo. Per una volta che me lo ricordo, ve lo dico. Se volete mandarci un sms 348-7649-289, poi mi dovrò anche ricordare di lanciare il programma per riceverli, ma questo è un altro discorso. Discorso di questa sera invece, Tom Zè. E voi dite, primo, chi è Tom Zè? Adesso ve lo spieghiamo. Comunque vi posso anticipare che Tom Zè non è esattamente un eroe di questi 88-93, è un eroe della fine degli anni 60, è brasiliano e non è molto conosciuto, non quanto Caetano Veloso o Gilberto Gil, ma avremo tempo per spiegarlo. Siamo partiti con l'idea di parlare di Tom Zè perché negli anni 80, come molti grandi degli anni 60, che adesso girano ampiamente, ma diciamo a caso Neil Young, caddero nel dimenticatoio, e fu grazie a un tal David Byrne, questo magari lo conoscete perché era nei Talking Heads, che fu riesumato alla grande e ripubblicato, e noi l'abbiamo riscoperto grazie a lui. O cose così, dico bene, dottor Scarpa? Sì, buonasera a tutti e a tutti, dice bene dottor Ferrari. Oggi abbiamo anche degli ospiti, vogliamo anche presentare per un po' di educazione, Babe? Dopo la... arrivo, dopo la... Sei sempre il solito, Babe! Dopo la necessaria introduzione arriviamo anche alle presentazioni. Oggi studio pieno, d'altronde l'ultima puntata, chiudiamo per la puntata di annata 2015-2016, chiudiamo in bellezza, appunto. Allora, devo presentare il dottor Simoniello, la dottoressa Di Eugenio, vabbè, oltre al dottor Corrias che è qua con noi, a Margherita che è qua con noi. Insomma, siamo tanti e parleremo diffusamente di questo personaggio che secondo me è poco conosciuto. Non so qui a Bologna quanti lo abbiano mai visto dal vivo, lo conoscono, abbiano i suoi dischi, ma questo sarà il tema della puntata. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. suavemente pra poder rasgar. Olho fechado pra te ver melhor. Com alegria pra poder chorar. Desesperado pra ter paciência. Carinhoso pra poder ferir. Lentamente pra não atrasar. Atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo. Esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cego. E tô ficando cego pra poder guiar. Immaginare quanto siano vicini un piano e una lucidatrice quando chi suona è pessimo. Ma dato che nessuno suona la lucidatrice, sono diventato l'unico. Questo è Tonzè, una delle sue affermazioni spiazzanti sulla musica. Lui praticamente ha sempre, per quanto abbia compiuto studi classici, abbia studiato musica, ha sempre sottolineato il fatto di venire dalla strada essenzialmente, ha quasi esaltato una sua incapacità canoro musicale, che ovviamente è un'arma per sottolineare, per andare contro qualsiasi tipo di intellettualismo. Nella sua musica si trovano il sarcasmo, l'ironia e anche quella sottile malinconia che in effetti serpeggia in molta musica brasiliana. Tutto questo si mescola a dei giochi di sperimentalismo che però non sono solo cerebrali o mentali, ma che vengono dalla musica di tutti i giorni. Tonzè ha sempre sottolineato la sua vicinanza alla musica popolare brasiliana e dal fatto di aver imparato essenzialmente ad ascoltare e a suonare attraverso la radio, attraverso la musica della gente, attraverso la strada. Nei suoi concerti vi è una forte componente di improvvisazione e soprattutto di divertimento. Un anti-intellettuale. Sì, la cosa forte è che in realtà dice anche delle cose, dopo magari sentiremo qualcosa dagli altri ospiti, dice delle cose anche abbastanza pese a livello intellettuale, però in realtà... Lui si spacciava per uno della strada. Però gli piace dire che... Diciamo che tutte e due, secondo me, insomma. Basta ascoltarlo in qualche intervista e si capisce un po' il personaggio. Ma sì, infatti di Tonzè ci piace molto la sua personalità, anche un po' la sua visione dell'arte, della musica, questo ribadire continuamente io sono un uomo qualunque, non sono un artista, non voglio etichette. E anzi, proprio questa idea che la creatività sia qualcosa che si sviluppa un po' come processo anche a partire da un'incapacità naturale. Non ho talento, non sono per forza un artista e proprio per quello devo ingegnarmi per creare qualcosa che valga la pena di rendere musica. Un po' questa è la... Non che la lucidatrice nei dischi l'ha utilizzata veramente. L'ha utilizzata veramente. Ma questa tastiera a cui erano collegati degli elettrodomestici, tra cui una lucidatrice, e la riattivava con una tastiera, quindi... Insomma. La sua compagna gli chiese di sistemare questo elettrodomestico rotto e da lì è partito il viaggio. Siamo negli anni 90. In realtà però la sua storia comincia molto prima. Tonzè innanzitutto è baiano, quindi questo poi è importante ricordarlo per i brasiliani. E comincia negli anni 60 un po' il suo percorso musicale, un po' tutto il suo metodo di scrittura, di composizione si basava su questa idea di concatenamento narrativo di titoli di giornale. Lui prendeva titoli di giornale e cominciava così a le sue performance un po' musicali, no? E per questo si parlava di canzoni giornalistiche quando si parlava della sua musica. Ma magari conosceva i Cut Up. Ah, può darsi. Direi di... non ce l'avrebbe mai detto. E poi appunto nella Baia degli anni 60 comincia a trovare spazio in questa TV che si chiamava Itapuà e comincia a presentare i suoi brani, quelli più satirici, che parlava, che in fondo erano un po' cronache umoristiche di personaggi, fatti quotidiani della città di Salvador, di Bahia, e parlavano anche di molte vicende di strada, di disuguaglianze sociali, erano anche canzoni, diciamo così, impegnate, però lui rifiuta categoricamente lì l'etichetta di musica di protesta, e perché pensa che sia proprio fuorviante. Dice: io sono un uomo che sta nella terra, vive le vicende quotidiane e parla di quello che vede, non vivo certo su Marte e non ho bisogno di etichette. E su questa cosa della un po' della contestazione dell'etichetta di musica di protesta entrerà un po' in conflitto anche con altri futuri colleghi tropicalisti, mettiamola così. E ascoltiamoci questa, Professão Ladrão. Deram parte ao delegado que eu era filho vadio. Semana que não trabalhava, sustentava a mulher com 5 filhos. O delegado me intimou pra eu ir na delegacia. Fui prestar depoimento daquilo que eu nem sabia. Mas eu tenho tanta profissão que já nem sei contar. Inventor industrial até cirurgião. A língua do meu canivete opera apendicite. Em muita gente que não presta fiz intervenção. Vou lhe contar que no fábrico de bonecos sou industrial. Mas vai me ser guarde segredo pela caridade, pois eu atendo a domicílio na sociedade. E como inventor me orgulho porque eu já honrei a memória de Santos Dumont. Inventei um maquinário, ainda lá na minha terra. Fabricava 1000 cruzeiros, mais bem feitos que os da Inglaterra. Sei que quem rouba um é moleque, aos 10 promovido a ladrão. Se rouba 100 já passou de doutor, e 10 mil é figura nacional. E se rouba 80 milhões. Diplomacia internacional, a boa vizinhança e outras tranças. É que na profissão de ladrão, injustiça e preconceito, da chuva pra inundação, para alguns fama e respeito, pra outros a maldição. Pois o tamanho do roubo faz a honra do ladrão. É por isto que eu só vou para o xadrez, seu delegado. Se o senhor trouxer primeiro toda a classe para o meu lado. Mas neste dia de aflição não vai ter prisão no mundo pra caber a multidão. Eu sei que não sou delicado, mas quem se deu por ferido foi porque tem seus recados. Foi porque tem seu pecado. Tem seu pecado. Foi porque tem seu pecado. Parlavamo dei futuri colleghi di Tonzè. Chiaramente la maggior parte degli ascoltatori probabilmente conoscono Gilberto Gil e Caetano Veloso, che in effetti dei tropicalisti sono poi i più famosi e quelli che hanno continuato ad essere famosi anche durante poi gli anni Ottanta. Come dicevi tu prima, invece Tonzè negli anni Ottanta e fino ai primi anni 90 era finito nel dimenticatoio, anche nello stesso Brasile. Caetano Veloso invece viene quasi tutti gli anni anche in Italia, quindi sì, è molto famoso. Continua a essere molto famoso e molto popolare, anche magari fra la gente che non è appassionatissima di tropicalismo. Il tropicalismo come... Che cos'è il tropicalismo? Penso che molti appassionati lo sanno. È questo movimento non movimento, perché in effetti nacque un po' per scherzo, con una definizione data da un giornalista nel Sommotta. Era un movimento nato alla fine degli anni 60, dove appunto i cantautori all'epoca giovani come Veloso o Gil cercavano di combinare quelle che loro ritenevano diciamo le radici anche culturali della musica brasiliana, recuperando anche non solo delle canzoni popolari ma anche a volte proprio delle canzonette anche magari banali a livello folcloristico, però miscelando tutto questo, avendo la consapevolezza di stare in un mondo in cui esistevano i Beatles e Rolling Stones essenzialmente. Quindi non era un andare contro per forza la bossa nova, da cui tra l'altro Gilli e Veloso venivano, ma nel voler sottolineare non c'è solo questo, cioè il tropicalismo poi ha investito, è un movimento che ha investito non solo la musica, si parla di tropicalismo nel cinema col cinema nuovo di cui Glauber Rocha è stato uno dei rappresentanti, poi ci sono state anche delle cose connesse alla moda, insomma l'idea del tropicalismo era quello di appropriarsi di quello che era considerato esterofilia, che veniva dal mercato angloamericano, e rimasticarlo alla brasiliana, diciamo così, in maniera molto veloce. Questo è un concetto, dottoressa De Eugenio, che precede, che viene da lontano, no? Sì, come che è antropofagia culturale. Esatto, in realtà ecco, il tropicalismo si ispira apertamente alle idee dell'antropofagia, che è una parolona, però in realtà conosciutissima in Brasile, che è un movimento culturale che nasce alla fine degli anni 20, parliamo 1928, quando un tale scrittore modernista, Oswald de Andrade, scrive questo manifesto antropofago. E lui cosa fa? Prova un po' a recuperare metaforicamente sul piano culturale questa metafora del cannibalismo, o meglio dell'antropofagia, cioè non si trattava di una sorta di rituale che praticavano delle comunità indigene Tupi-Guarani che abitavano le coste brasiliane quando arrivarono i colonizzatori portoghesi, ed era proprio il rituale di mangiare la carne del nemico che consideravano valoroso, no, per incorporarne le virtù. E siccome i cannibali i famosi cannibali, esatto, però qui non si trattava appunto di mangiare per bisogno, per necessità, ma proprio all'interno di un rituale molto complesso, tra l'altro. E quindi tale Oswald de Andrade riprende questa metafora e dice: in quegli anni in cui tutto quello che arrivava dall'Europa era un po' oro colato, era qualcosa da copiare, qualcosa di superiore rispetto alla cultura brasiliana, anni in cui i poeti parlavano di muse, di ispirazione dall'antica Grecia in un paesaggio invece totalmente diverso e tropicale, dice: ok, basta con questa storia, dobbiamo in qualche modo cannibalizzare la cultura europea, cioè incorporarla, farla nostra e produrre qualcosa di nuovo, di creativo, ma che comunque mantenga un potenziale conflittuale. E questa idea qui in realtà viene ripresa dagli anni 60, negli anni 60, da un gruppo teatrale che a San Paolo si chiama Teatro Officina, che mette in scena uno spettacolo teatrale scritto da Oswald de Andrade sempre negli anni 30. Caetano Veloso assiste a questo spettacolo, ne rimane folgorato, da lì un po' le idee dell'antropofagia cominciano a ricircolare e i tropicalisti un po' se ne appropriano, e quindi diventa un po' l'idea di sperimentazione, assimilazione di linguaggi diversi, sguardo comunque rivolto alla quotidianità, alla modernità, però con un potenziale critico, tant'è che siamo in piena dittatura quando c'è il tropicalismo, quindi anche un po'. Infatti è una cosa che Tunzè faceva, diciamo, anche un po' per conto suo, diciamo che sì, in un certo qual modo si sono trovati. Anche perché erano nati tutti a una distanza di 25 km l'un dall'altro. Sì, questa è una cosa infatti particolare che Tunzè stesso sottolinea in un'intervista, cioè che in effetti il nucleo del tropicalismo viene dalla stessa regione praticamente. Sì, nella Bahia. E poi succede che nel 67, 68 c'è questo disco Tropicalia, famosissimo, a cui partecipano un disco collettivo Caetano, Gil, Gau Costa, Torquato Neto, Smutantes e Tunzè. Tunzè è qui, scrive questa canzone che è inserita in questo CD, che si chiama Parque Industrial. Parque Industrial. La cosa particolare, qui proprio apro una parentesi brevissima, però con piacere, che questa canzone in realtà viene dal titolo di un romanzo che è pubblicato in Brasile molto prima, nel 1933, ed è scritto da una scrittrice, giornalista, femminista, che è stata un po' per molto tempo dimenticata, che si chiama Patrícia Galbão, detta Pagu, che anche lei partecipò a questo famoso movimento modernista dell'antropofagia. E tra l'altro tra una delle prime donne ad essere imprigionata per motivi politici durante la dittatura Vargas, una storia molto particolare, solo che un po' vista, una donna molto giovane, affascinante all'epoca, era un po' vista come la musa dell'antropofagia e screditata un po' dal punto di vista intellettuale e politico, per cui i suoi libri sono stati proprio dimenticati, però fino ad un certo punto Tunzè decide di utilizzare proprio il nome di questo romanzo scritto da lei, tra l'altro scritto sotto pseudonimo, perché il Partito Comunista a cui insomma lei partecipava in quegli anni non voleva che apparisse il suo nome, per cui c'è stata proprio una storia di dimenticanza rispetto al suo, alle sue opere, alla sua vita. E tra l'altro questo romanzo parla della storia, diciamo, di vita quotidiana di lavoratori, soprattutto lavoratrici, di un quartiere operaio di San Paolo che si chiama Brass, di cui parlerà anche Tonzé successivamente nell'album del 78 che si chiama proprio Correio Gesta Sao do Brass. È la seconda canzone che abbiamo ascoltato. Esatto, proprio all'inizio. Quindi io direi ascoltiamoci Parque Industriale e un omaggio a Patrizia Galvão. É somente requentar e usar. É somente requentar e usar. Porque é made, made, made. Made in Brasil. Porque é made, made, made. Made in Brasil. Brasil. Retocai o céu de anil, bandeirolas no portão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações o avanço industrial, vem trazer nossa redenção. Tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado. É somente requentar e usar. É somente requentar e usar. Porque é made, made, made. Made in Brasil. Porque é made, made, made. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações o avanço industrial, vem trazer nossa redenção. A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete. Vamos lá. Que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado. É somente folhear e usar. É somente folhear e usar. Porque é made, made, made. Made in Brasil. Porque é made, made, made. De lençóis e culpa, medo e maravilha. O amor é velho, velho, velho, velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. Tempo, a vida, a lida andam pelo chão. O amor, aeroplano. O amor zomba dos anos, o amor anda nos tangos, no rastro dos ciganos, no no vão dos oceanos. O amor é poço onde se despejam lixo e brilhantes, orações, sacrifícios, traições. O amor é velho, velho, velho, velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. O amor é velho, velho, velho, velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. A vida linda, andam pelo chão, o amor aeroplanos, o amor zomba dos anos, o amor anda nos tangos, no rastro dos ciganos, no vão dos oceanos. O amor é poço onde se despejam lixo e brilhantes, orações, sacrifícios, traições. O amor é velho, velho, velho, velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. O amor é velho, velho, velho, velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo. Do festival, e imagino eu que ele estaria no Rio Malandriano, entrou numa loja de disco e disse: me dá todos os discos di samba che sono interessato a sapere che è samba. Come tutti sappiamo, i tropicalisti non sono nati nel mondo aristotelico. Senza conoscere Aristotele, eravamo ragazzi istruiti. Aristotele si definiva analfabeta aristotelico, per l'appunto. Lo chiediamo a voi: avete mai pensato di agire sotto una nuova prospettiva, vedendo il mondo da una nuova cosmogonia e interagire con esso in un modo del tutto diverso? Qualcuno ha un'esperienza che vuole condividere a questo riguardo? Qualcuno ha idea di come si possa costruire una civiltà senza lavorare culturalmente con Aristotele? I tropicalisti sono nati a una distanza massima di 25 km di distanza l'uno dall'altro e si sono educati attraverso le radici culturali della Spagna. Io chiamo questa una trappola storica. Quando la Spagna è stata invasa dagli arabi, a partire dal VII secolo, dopo la decadenza di Roma e di tutta quella che era la civiltà romana, è iniziato il governo dei barbari in Europa. Ma qui, nella penisola iberica, il popolo portoghese e spagnolo vivevano sotto l'assedio culturale degli arabi, che venivano pensati come la più alta delle civiltà a quel tempo, in quanto avevano inventato l'idea dello zero. Tutte le civiltà fino a quel momento avevano sviluppato i budget governativi senza la cifra dello zero. Tutte le civiltà precedenti agli arabi non hanno il concetto di zero, intendiamo i babilonesi, i greci, i romani, mentre gli arabi hanno introdotto il concetto di zero. La guerra è sempre stata amica della scienza. Questo fatto è qualcosa di curioso. Durante la guerra, la vita scientifica ricava un sacco di input. Gli arabi erano diffusi su tutta la penisola iberica, dove siamo ora, ed erano educati ad un livello elevato di istruzione. Avevano particolarmente sviluppato la medicina e l'architettura. Sono stati qui per 8 secoli, dal VII fino al XV secolo. L'ultimo possesso arabo qui era Granada, fino al 1492. Dopo gli arabi avevano lasciato il loro dominio. Spagnoli e portoghesi ebbero appena il tempo di tagliare alberi e fare barche a vela portandole verso la nascita del continente americano. Ora, che cosa ha a che fare con il tropicalismo? Siamo alla nursery. L'unica cosa che un bambino può fare è quello di essere il più silenzioso possibile. Questo è quello che ho vissuto. Il regista francese Alain Resnais ha questa teoria. Quando siamo da 0 a 2 anni abbiamo una scheda mentale in cui si registrano tutte le loro esperienze. È il tempo della nostra vita, quello dove impariamo di più, dove possiamo realmente ottenere il massimo ingresso di esperienze. Questo vivaio è l'origine dei nostri pensieri. I nostri infermieri, le nostre cameriere erano i nostri professori. Non Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro jogo, atenção de manhã. Menina, a felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, a felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, a felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, a felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, a felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de é cheia de é cheia de i, é cheia de ó, é cheia de a, é cheia de é cheia de i, é cheia de ó, é cheia de a, é cheia de é cheia de i, é cheia de ó, é cheia de a, é cheia de é cheia de i, é cheia de ó, é cheia de a, é cheia de é cheia de i, é cheia de ó, é cheia de a, é cheia de carro velho no mar, seu Chevette, cobrador na sua porta batendo. Não há empobrecimento di sua vita, vender casa na praia, tutto che foi. Durante il tempo in cui gli arabi erano qui, durante il XII e il XIII secolo, i poeti della Provenza subirono una decisiva influenza dalla cultura iberica. Ezra Pound ha detto che è impossibile trattare la poesia sia negli Stati Uniti e al di fuori senza menzionare la poesia della Provenza in quel tempo, nell'XI e XII secolo. Dante Alighieri diceva che Daniel è stato lo scrittore più abile in quella lingua. Quando i portoghesi vennero in Brasile erano più arabi che portoghesi. A questo punto, proprio ora, si inseriscono i tropicalisti. Ci fu un trattato tra il Portogallo e la Spagna, quando scoprirono l'America, che tracciò una linea in tutto il continente. Ad est di questa linea sarebbe stato possedimento portoghese, ad ovest spagnolo. Questo trattato si chiama Trattato de Tordillas. Uno che può confermare la mia teoria è lo scrittore brasiliano chiamato Euclides. Quando il Brasile veniva esplorato dai portoghesi, alcuni degli esploratori rimasero presso la regione in cui sono nato e non tornarono a San Paolo. I portoghesi si sono riuniti con gli indios e i neri per 4 secoli. Il risultato è stato un tipo di pelle, ossia questo tipo di colore e questo tipo di modo di pensare. Anche se le persone erano analfabete, conservarono la cultura dei loro antenati, oralmente. Erano istruiti nel senso che sapevano tutto ciò che riguarda la loro storia e le loro origini. Noi eravamo già pronti con tutte le cose necessarie per vivere in una cultura, ma poi in quel momento abbiamo iniziato a interessarci di Aristotele, che ho iniziato a chiamare spazzatura logica. Siamo stati fortemente influenzati dalla cultura araba, molto di più che dalla logica aristotelica. In realtà io non conoscevo la logica aristotelica. Quando sono andato a scuola all'età di 8 anni, tutto quello che mi veniva insegnato era il modo aristotelico, tendenzialmente strano, ma con il nostro modo di pensare arabo colmai questa discrepanza, considerando che il mondo aristotelico di pensare è assai preciso, mentre il mondo arabo lascia sempre un po' di scarto. Sappiamo tutti che più 2 più 2 non fa 4 e il cervello umano non butta via nulla, si tiene tutto. Ho pensato che stavano cercando di buttare via lo scarto che si produce tra il modo aristotelico e il modo di pensare arabo, ma c'era qualcosa che rimaneva nell'ipotalamo. Il resto, che si chiama spazzatura logica, rimase e quando andammo all'università ne avevamo così tanta nella testa che non entrava più nulla. Tutta questa spazzatura logica arrivò alla corteccia anteriore del cervello e iniziamo a ripensare un nostro vocabolario basato su questa spazzatura logica, aggiungendo sempre Aristotele e Arabia. Stavamo cercando di incorporare una cricca di cantanti molto noti, ma quando abbiamo avuto l'opportunità di presentare alcune delle canzoni al pubblico, abbiamo incorporato questi due modi di vedere la vita, aristotelico e arabo. Ma molti segmenti della società, inclusa la politica di sinistra, dissero che era un'alienazione della cultura brasiliana e una copia della cultura americana. Tropicalia non è nato dalla musica rock internazionale, ma è venuto dalla spazzatura logica. Brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação de falar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, tão sério, de parecer tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Abbiamo ascoltato prima, abbiamo ascoltato un brano da Hips of Tradition, album del 92, che è stato il secondo album pubblicato da, con l'etichetta di David Byrne, la Luaca Bop. Sì, dai, era praticamente una raccolta di successi sparsi degli anni 60-70. Sì, poi Hips of Tradition erano degli inediti. Mentre invece la raccolta, il disco precedente, che recupera appunto alcuni brani che abbiamo ascoltato prima, che invece è il disco del 75, Studiando Samba, che in effetti è uno dei più famosi per chi conosce Tonzé, realizzato insieme al sambista Elton Medeiros. Apparentemente sembra un album di samba, in realtà qui chiaramente l'intento di Tonzé è quello di fare un samba sperimentale, quindi smontato, decostruito, direbbe qualcuno, insomma, no, i nostri amici che stanno dottori, al vago, no? Qualcuno che sta al vago in questo momento direbbe decostruito. No, più boiate, meno intellettualismo. Sì, è giusto, più boiate. Quindi posso fare un po' di quello che vuole. Prego, dottore. No, comunque, questo Studiando Samba è uno dei dischi più noti, anche diciamo dei di quello poi che l'ha fatto riscoprire. Sì, è stato grazie a questo che David Byrne l'ha ascoltato in Brasile. Ha telefonato ad Arthur Lindsay, che per chi non lo conosce è uno dei più noti arrangiatori e produttori newyorkese, ma apparentemente cresciuto intriso di cultura brasiliana. E ha telefonato e ha detto: ma avete questo compositore geniale, nessuno ne sa nulla. E quindi aveva pubblicato questo album. E questo album abbiamo ascoltato, Vai Menina Amania, giusto, dottoressa? Come sì, la pronuncia? Abbiamo la dottoressa che... Menina Magna Gimagna, ed è una canzone che appunto è presente in quest'album qui del 75, e in realtà è una canzone molto particolare. Tra l'altro recentemente è stata reinterpretata da una cantante brasiliana, Monica Salmasso, che ha una voce incredibile, e di nuovo è stata, insomma, riportata alla luce, tra virgolette, anche se questo album in realtà non è stato mai realmente al buio, perché appunto, come dicevamo, è l'album che poi ha rilanciato Tonzé. E questa canzone ha una storia particolare. Tra l'altro c'è anche un video su YouTube di 10 minuti di registrazione di un concerto di Tonzé a San Paolo nel 2010, dove inizia a cantare questa canzone, poi si interrompe e dice: beh, adesso vi racconto la storia di questa canzone, perché è una canzone che apparentemente appunto parla di felicità, un dialogo con una donna, una musica super aperta, e in realtà è scritta durante la dittatura, siamo sempre nel 75. La dittatura brasiliana di titolo militare comincia nel 64, finisce nell'85, quindi 21 anni. Tra l'altro dagli anni 60 anche con insomma, un livello di repressione molto alto, che cacciò via anche tutti gli altri tropicalisti. Sì, Caetano e Gilles che vanno in Inghilterra, Chico Buarque che verrà in Italia, quindi anche un momento molto delicato. E nel 75 Tom Zè scrive questa canzone, e in realtà questa felicità è un po' un'immagine della dittatura brasiliana. Era una canzone scritta pensando all'icona felicità con cui il Brasile veniva descritto in quegli anni, cioè lo slogan era: il Brasile è un paese bellissimo, felicissimo, il Brasile è la felicità, amalo o lascialo. Questo era lo slogan proprio che veniva presente in tutti i luoghi pubblici in Brasile. Tutti spiaggia. Esatto, tutti in spiaggia, siamo tutti bene, siamo tutti felici. Tutti in spiaggia in tanga. E quindi in tanga, rigorosamente. Passeggiare. No, in realtà non pallone, era proprio così. No, giusto. Esatto. Però, e quindi Tom Zè scrive, cioè parla di questa felicità, e infatti analizzando, cioè leggendo proprio il testo di questa canzone, si capisce benissimo che in realtà è la descrizione di una felicità persecuzione, cioè qui si parla di una felicità che si abbatte sugli uomini, che fa paura, che, da cui non c'è sbocco, da cui, insomma, a cui bisogna stare attenti, per cui è chiaro che era insomma un riferimento alla dittatura militare. Você inventa. Grite, eu invento. Ai, você inventa. Chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Maltratei. Sim, maltratei demais. Dói! E machuquei, que meu coração que bate calado, que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói! Oh, oh, oh. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Calado, que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oh, Allora, domandina così, anche perché mentre si parlava di antropofagia culturale, insomma, così mi è venuta questo punto interrogativo. Volevo capire se all'antropofagia a cui ti riferivi prima, insomma, parlando di Tom Zé e della scena che ruotava attorno in Brasile, ha avuto dei riscontri anche in Europa, questo nuovo modo, che poi alla fine secondo me non era poi neanche così tanto nuovo quanto poi alla fine ci riferiamo all'introdurre nuovi modi di vedere e pensare sia a livello culturale e non, per poi farli propri e personalizzarli, insomma. Volevo capire se questo nuovo modo di intendere e vedere le cose aveva avuto dei riscontri anche oltre il Brasile. Bella domanda questa. Beh, in realtà ne parlavamo prima, perché interessante domanda, perché sì, in realtà l'antropofagia ha fatto una lunga strada, nel senso che è nata, appunto, come raccontavo prima, con una teoria culturale, chiamiamola così, teoria culturale, poi era un movimento d'avanguardia che però appunto è stato ripreso in Brasile negli anni 60-70 e poi ha influenzato il mondo culturale in generale, molto oltre la letteratura, ecco. E ha fatto tanta strada anche fuori dal Brasile, soprattutto in Francia o in altri paesi, perché è diventato, il discorso è questo, che è un po' diventato, in Brasile è stato in un certo senso è diventato un po' sinonimo anche di identità brasiliana, l'antropofagia in generale, cioè la capacità di assimilazione, di mescolanza, di incorporazione, anche nel concetto stesso di democrazia razziale che è stato costruito durante la dittatura Vargas, no? Di questo paese che non ha mai avuto un apartheid istituzionale, perché ha avuto da sempre mescolanza etnica, razziale, culturale. Quindi un po' l'antropofagia, diciamo così, che si è un po' mescolata dentro l'idea anche di nazionalità, di identità brasiliana, e quindi è diventata anche un po' una faccia del Brasile fuori dal Brasile, è diventato un po' anche il modo in cui si parla del Brasile da fuori. Io raccontavo prima che c'è questo testo che scrive un ebreo che degli anni, a fine anni 30, scappa dalle persecuzioni razziali e arriva in Brasile, scrive questo testo che si chiama Brasil País do Futuro, Brasile Paese del Futuro. Ovviamente lui fugge da persecuzioni razziali, arriva in un paese dove la mescolanza culturale, etnica, razziale è fortissima, e dice: il Brasile è un posto meraviglioso, è il futuro. E in un certo senso, quindi, questo concetto di incorporazione, assimilazione, mescolanza è diventata l'immagine del Brasile fuori dal Brasile, no? Solo che è stata anche molto istituzionalizzata questa visione, strumentalizzata anche politicamente in Brasile, perché oggi diventa anche il Brasile, che è anche un paese razzista, è anche uno dei paesi dove le disuguaglianze sociali sono anche più forti oggi, è diventata anche d'ostacolo questa visione invece nel riconoscimento del razzismo e anche nell'affrontare certe, con delle politiche istituzionali o non, questa problematica, perché a livello anche proprio di senso comune, a livello collettivo, c'è molto la visione di un paese non razzista. Quindi ecco, anche se l'antropofagia è nata in un contesto specifico, in ambito culturale, poi è diventata molto altro, e ovviamente anche fuori dal Brasile ha influenzato positivamente o negativamente, forse entrambe le cose, la visione del Brasile. Ecco. We'll be right back. dupla passagem pela barreira, sangrando, rasgando, subindo a ladeira, orgasmo invertido, gritei quando vi. Já estava respirando. Dudubi, dubi, dubi, mama água. Dudubi, dubi, du, papá dada. Dudubi, dubi, dubi, mama água. Dudubi, dubi, du, papá dada. Questa era Nave Maria, che è la canzone, anche titolo del suo album dell'84. Album che in realtà fu un totale insuccesso e avviò un periodo anche piuttosto buio, insomma, per Tonzè. Prima di questo, però, e l'abbiamo ascoltata all'inizio, ne parlavamo anche prima, c'è l'album con Rai Oggi e Stassa Udbras, che esce nel 78, ed è l'album che in realtà racconta molto, diciamo, forse contiene tutte le influenze del periodo di vissuto a San Paolo, ed è anche l'album con cui comincia il vero sperimentalismo musicale di Tonzè, tanto che lui quello di cui parlavamo all'inizio, cioè inizia a sperimentare un armamentario di elettrodomestici che è formato da praticamente una tastiera elettrica che azionava lucidatrici, frullatori, frigoriferi, miscelatori e quant'altro. E solo che questo periodo, che dal suo punto di vista era anche un periodo di grande, appunto, sperimentazione, anche creatività, crescita musicale, e non è stato forse compreso dal suo pubblico, che progressivamente comincia ad allontanarsi, tanto che tra a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 soprattutto smise quasi di fare concerti, ogni tanto appariva in delle presentazioni all'università e comincia un po' il suo periodo buio, possiamo dire. Volesse addirittura abbandonare la musica e lavorare in una pompa di benzina. Sì, quella, la pompa di benzina del fratello sì, sì, sì, Bahia. Insomma, è stato un buon periodo. Il brano che abbiamo ascoltato, tra l'altro, Nave Maria, contiene alcune delle degli elementi, degli stilemi proprio. Si autocita, Tonzè. Sì, praticamente lì ci sono stilema, faccio fatica a ripeterlo. Però si autocita, sì, sì, riesco a capirlo anch'io. Degli elementi che ritornano, no? dalla chitarra, questo modo di suonare la chitarra quasi stonato, che in realtà è con il molto acuto, e anche questo cellula che ritorna, no? Che si sente, che prende di compare almeno 5 suoi brani, se non di più. E prende, lui si autoplagia, poi non si autoscita, ma perché per Tonzè è cosa che poi dirà, tra l'altro, in un'intervista: il plagio è politico. Cioè, questa sembra, il plagio è politico. No, l'autoplagio. Nel senso, anche l'autoplagio, soprattutto. Cioè, nel senso, lui è tutto il discorso che diceva prima la dottoressa di Eugenio sul fatto del tropicalismo che incorpora, cioè è prendere queste cellule musicali di se stesso, appartenendo ad altri brani, ad altri stili, ad altri generi, per riutilizzarli in questo sperimentalismo. Nave Maria è molto fatto di autocitazioni, ma come dicevamo è stato l'album in cui, diciamo, credo un fallimento, e che ha dato avvio a un periodo, appunto, molto scuro. Tra l'altro lui sottolinea che ha avuto un periodo di depressione che ha superato solo grazie alla moglie, giusto? Diciamo. Grazie alla compagna, che sì, cita sì, spessissimo quando parla di questo periodo un po' buio, insomma. E sì, tra l'altro sì, diciamo che c'è un sodalizio anche che artistico creativo molto forte, insomma viene citata spesso Neusa. Beh, se è stata lei a forzarlo più o meno a utilizzare un aspirapolvere lucidatrice perché si è agguastata, tanto di cappello. E insomma, come funziona la vita quotidiana a volte? In Brasile, ma non solo. Descobrir as ancas das tradições para o ferro em brasa dos anúncios. Oi, oi, oi, oi, oi. To expose the hips of tradition to the barn iron of heads. Barn iron of heads. Oh, of heads. Oh, of heads. Tua, tua, o arugo bago do bago de tua. Tua, tua, o arugo bago do. Trazer corpo aos pincéis da eletrônica. Oh. Antenas. Corpo não é pecado, corpo não é proibido, corpo não é mentira. Flash is not light, flash is not sin, flash is not forbidden. Oi, oi, oi, oi, oi, forbidden. Trazer o corpo para os pincéis da eletrônica. Oh, oh, oh, oh, oh. Vestir o poema no suor. Antenas das antenas. Melar o corpo, meu limão, meu limoeiro. Lamber o corpo no meu pé de jacaranda. Corpo não é mentira, corpo não é proibido, corpo não é pecado. Descobrir as ancas das tradições para o ferro em brasa dos anúncios. To expose the hips of tradition to the barney iron of heads. Fazendo cócegas nas tradições. Itching, itching the traditions. Beh, qua qualcosa era cambiato. Si sente uno strano rumorismo. Qua ho visto prima che ti drizzavano i capelli. Ero molto contento. Ero molto contento che qua abbiamo la zampata di Arthur Lindsay, che come dicevamo prima è stato poi il produttore del disco di rilancio di Tom Zen nel 92, che è Ipsos Tradition, che sentivamo. Oh, Ipsos Tradition, ho detto prima da Tom Zen proprio nell'ultima parte della canzone. E addirittura è stato l'unico album brasiliano comparso tra i 10 dischi più importanti degli anni 90 negli Stati Uniti, che insomma che è un bel risultato, anche se le classifiche non ce ne frega molto, però insomma un bel risultato. Qualcuno l'ha ascoltato. È stato un grande rilancio dopo questo rilancio avvenuto con la complicità di Bernard Lindsay. Tom Zen riprende a fare tour in Brasile, ma anche in Europa, negli Stati Uniti, e comincia poi a comporre colonne sonore, a fare dei nuovi album. E insomma è una rinascita artistica vera e propria, considerando che aveva già superato la cinquantina d'anni, insomma è notevole. Non so, sugli anni 2000 abbiamo, io personalmente ho conosciuto Tom Zè attraverso Daniele Seppe, lo diciamo prima, no? Cioè che, attraverso Daniele Seppe, perché Daniele Seppe che è un grande appassionato, dice, una volta pubblicò dei suoi proprio degli anni 2000 delle canzoni, e praticamente invece tu, Rosario, come ti è capitato? Beh, diciamo che amici che fecero un viaggio importante in Brasile, però la fortuna di conoscerlo personalmente, gli lasciarono anche il CD perché questa gente, insomma, questi amici suonano. E lui ascoltò il CD, pensa la modestia del personaggio, ascoltare un CD di gente sconosciuta che tra l'altro proveniva dall'Italia, quindi comunque da un'altra parte del mondo, e mandò poi una lettera di ringraziamento. Il CD l'ho ascoltato, diceva Tom Z. Insomma, per un artista, no, di tale fama, avere questa modestia non è di tutti i giorni, no? Cioè, sicuramente. E quindi fa molto specie. E da lì, insomma, mi sono affezionato anch'io, insomma, al personaggio, perché davvero merita. E poi, insomma, fatto anche, comunque, diciamolo, grazie magari anche a David Byrne, che l'ha fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua etichetta, insomma. E tanto di cappello l'artista. Poi, tra l'altro, giusto per fare, no, parlare, insomma, anche la rivista Blow Up dedicò addirittura una copertina a Tom Z. Insomma, abbiamo svelato tutti gli altarini questa sera, il motivo da dove è partito tutta l'idea della trasmissione. Compre este disco, é uma pesquisa paciente. Tom Z. Cada volta da agulha, pelo sulco docemente. Tom Z. Fará você ficar mais feliz e inteligente. Come on, buy this record. It's a very patient work. Don't see. Every calm revolution under a laser is led. Don't see. Shall grant you relaxation, high spirits and happiness. Enough. Beh, insomma, siete ancora qua con noi. Questa è This Is Not An Exit, una puntata insolita. Con tutto il rumore che vi abbiamo appioppato in questa annata, non solo, dai, non siamo stati poi sempre così cattivi. Sentire della musica brasiliana deve essere abbastanza insolito, ma comunque ci piace molto, perché Tom Zé è un personaggio insolito, poco conosciuto, e appunto proprio nel nostro periodo di lezione, 1988-1993, per sua fortuna e anche nostra, è ritornato, come dire, alla ribalta. Ma è ancora in giro? Sì, ancora in giro. Perché comincia ad avere una certa età. Quest'anno arriva ad 80 anni Tom Zé, però è ancora in giro. Sì, in realtà l'ultimo album è del 2014 e gli anni 2000 possiamo dire che sono stati molto produttivi, diciamo così. Escono molti album, Studando Bossa Nova, e Upagoggi, Impresa Cantata. Anche documentari, se non ricordo. Anche almeno tre documentari, forse più, Tour mondiale. Sì, è tour mondiale, quel documentario che citavamo prima è stato girato proprio nel suo tour europeo del 2005, dove è venuto anche in Italia, a Torino mi sembra, per cui ha fatto molta strada negli anni 2000 dopo il trampolino, ha recuperato tutti gli anni passati. E magari possiamo parlare di un album che è quello che forse ha fatto parlare più di Tom Zé negli anni 2000, è quello del 2013, che si chiama Tribunal do Facebook, Tribunale di Facebook. Perché? E questa è una storia particolare, molto particolare, che ci dice qualcosa sul personaggio Tom Zé. Perché nel marzo del 2013 c'è questa polemica in Brasile, perché Tom Zé presta la sua voce ad una pubblicità della Coca-Cola, che era un po' lo sponsor ufficiale della Coppa del Mondo che si è svolta in Brasile nel 2014. Qualcuno si ricorderà i disastri successi in quel periodo, manifestazioni abbastanza violente. Sì, esatto, pochi mesi prima delle famose giornate di giugno, delle manifestazioni di giugno appunto, e i suoi fan, anche le persone più affezionate, cominciano a bersagliarlo di critiche, soprattutto sui social network. Quindi lui decide di rispondere con un album che si chiama proprio Tribunale di Facebook, e che esce nel giro di pochi mesi, dopo tre mesi, quindi anche insomma subito dopo le polemiche, proprio come risposta, e tra l'altro reso, diciamo, disponibile gratuitamente in formato digitale. È un album di sole 5 tracce e pezzi anche molto particolari, insomma. E un po' lui gioca con le critiche, con una sorta di autocritica in qualche modo, per cui è sempre molto provocatorio e non si esime. La cosa particolare, diciamo, proprio questa, il fatto che lui si sia un po', abbia voluto anche giocare proprio con l'idea del tribunale virtuale, del giudizio di tutti i suoi fan sui social network, e in qualche modo non ha rinunciato a dare anche una zampatina critica, non so come dire, al vecchio tropicalismo. Cioè, siccome parlavamo prima di quanto Tom Zé ama citarsi e autocitarsi, in queste canzoni ironizza su alcuni versi di famose canzoni come Allegria Allegria di Caetano, dove si parlava appunto di Coca-Cola e di ragazzine. Ce lo vuoi raccontare? Sì, quello è un famoso brano, anzi Veloso si vanta di essere il primo a citare la Coca-Cola in un brano brasiliano, ma forse in dire l'altro, comunque più pop di così. Sì, ma lui proprio lo fece proprio di proposito, quindi diceva: io bevo Coca-Cola, lei pensa al matrimonio, una canzone mi consola, e questo è il testo originale di Veloso. Tom Zé ironicamente lo richiama dicendo: sono una ragazzina ex tropicalista, non penso più al matrimonio, ma se bevo Coca-Cola credo che mi sto vendendo. Ok, nel anonimo si sente vendito, tribunale di Facebook, una piccola stoccatina. Sì, stoccatina a se stesso, ai colleghi, a un po' tutti quanti, insomma. Si diverte sempre. Anche noi. Don Zé Mané baixou o tom, baba baby baby baba, velho babão. Don Zé Bundão baixou o tom, baba baby baby baba, Mané babão. Sou americanizado, é bancada com a Miranda, arrebentou o botão da calça. estudando propaganda. Vendido, vendido, vendido a preço de banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda. Seu sorriso engarrafado. Ele fez isso mesmo, tá errado. Fez isso mesmo. Que decepção, traidor, mudou de lado. Não tô dizendo que eu fui corrompido, mentiroso. Se fosse no Dolly, seu sorriso engarrafado. Não ouço mais, eu não gostei do papo, não. Pra mim, é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservante. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A súplica, quem que custava morrer de fome só pra fazer música? Eu não ouço mais, não gostei do papo. Pra mim, é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A nossa súplica, quem que custava morrer de fome só pra fazer música, hein? Quem custava? Dá licença. Que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Sou garotinha estropicalista, agora militando em um movimento. Já não penso mais em casamento, mas se tomo Coca-Cola, acho que estou me vendendo. Eu sei que Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo querida com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Meu coração fundamentalista pede socorro aos intelectuais. A diferença entre esquerda e direita já foi muito clara, hoje não é mais. Quero civilizar o capitalismo selvagem, quero trazer a luz pra toda ignorância. Como benfeitora não desejo mal, assim como não quis o velho amigo Cabral. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo que liga com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. Mas Papa Francisco vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar. O povo que liga com pedras na mão, voltadas contra o imperialismo pagão. E na cerimônia do beija-pé, Papa Francisco perdoa Dom Zé. No Facebook da Santa Sé, Papa Francisco perdoa Dom Zé. Pela magnânima força da fé, Papa Francisco perdoa Dom Zé. Por la sud-americana unida fidel, Papa Francisco perdoa Dom Zé. Thank you. Papa Francisco, perdoa ton Zé. Papa Francisco. Chissà se Bergoglio ci sta ascoltando. Sì. Comunque sì, c'è poco da fare. Tom Zé anche nel 2013 è sul pezzo. Troppe Z per il sottoscritto, ma dai, sono gli ultimi minuti di questo 2016 per noi, trasmissione annata 2015-2016, perdonatemi. 22-25 minuti primi, ebbene sì, siamo ai saluti, anche Papa Francesco ha stimolato la fantasia di Tom Zé, ci perdonerà per queste divagazioni musicali, bah, chi lo sa, chi se ne frega. Comunque andiamo avanti, direi buonanotte a tutte e a tutti. Beh sì, saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori in questa annata molto divertente e molto ampliata. Abbiamo allargato anche i collaboratori, vero dottor? Eh sì, poi qualcuno se ne va, qualcuno torna, qualcuno ricompare. Ma che va via sul serio non c'è mai nessuno. Tornano sempre. Tornano sempre. E quindi buona estate a tutti. Buon'estate. Grazie a tutti per la collaborazione, grazie tanto agli ascoltatori per la pazienza. Spero che vi sia piaciuta la programmazione e beh, direi che a settembre ci si risente, insomma.